Ciao, io sono Sara Crescimone del centro Open Mind GLBT di Catania. Ringrazio le compagne e i compagni che ci hanno invitato. Io sarò molto, molto breve perché mi piacerebbe anche, come dire, avere uno scambio con le altre, con gli altri. Sono rare le occasioni in cui possiamo incontrarci perché, vabbè, ci sono gli aerei, ma le distanze sono sempre distanze. Niente, il centro Open Mind lavora a Catania da circa 10 anni e siamo sempre stati nell'area di sinistra antagonista, però abbiamo cominciato a fare i Catania Pride nel 2000 e c'era un'altra aria, si respirava un'altra felicità, un'altra gioia nel dirsi, no? Gay, lesbiche, bisessuali, transessuali. Poi piano piano le cose sono cambiate e lo abbiamo sentito nell'aria, nell'intolleranza, nella gente che non sorrideva più, nella paura delle persone LGBT ad esporsi, in questo ritornare dentro un privato che poi è un ghettizzarsi, perché non si può essere LGBT solamente nelle ore di discoteca o nelle dark, ma purtroppo sta succedendo questo. Poi c'è stata una svolta che ci ha ancora di più fatto rendere conto che la lotta dell'antifascismo doveva essere ancora più forte. Catania è una città nera, è una città che ha un cuore nero perché lì si salda la congiuntura fra mafia, tra fascismo e chiesa, però è anche una città che ha delle grosse, come dire, una grossa capacità di reagire, ci sono delle grosse contraddizioni. E l'Open Mind fa parte di questa resistenza insieme ad alcuni compagni e compagne della sinistra, dei centri sociali, con le quali stiamo facendo questi percorsi. Allora, il 28 giugno 2006 noi organizziamo, come ogni anno, il Catania Pride, il 28 giugno 2006. Scendevamo la via centrale di Catania. A un certo punto i compagni mi dicono: Sara, ci sono quelli di Forza Nuova? Ho detto: no, non può essere, non può essere. Ma come? La polizia qua, là? No, no, ci sono proprio loro. Allora, per me è stato uno shock, veramente. Cioè, io ero andata fuori di testa perché vedere queste persone, va bene, l'avevamo sentito, c'erano i banchetti, ma vedere 40 persone che non ti conoscono, praticamente. Cioè, questi ci odiano, non ci conoscono, cioè le cose che più mi fanno, no? Ci odiano per eredità. Bene, è così. Allora c'erano queste persone, c'era anche una donna, che ci urlavano contro il loro odio, il loro slogan, e c'erano tre poliziotti che ci dicevano: basta, basta, adesso l'avete fatta la figura, andatevene. Siccome la questura non aveva provveduto a un ordine pubblico realmente, come dire, presente, allora avevano una gran paura. I poliziotti erano letteralmente terrorizzati da quello che si stava, che poteva succedere, perché c'eravamo noi e c'erano i ragazzi dei centri sociali che già erano andati in fibrillazione, giustamente. Quelli che erano là e non avevano nessuna intenzione di farci passare, e i poliziotti che non sapevano che cazzo fare. Allora abbiamo mantenuto il sangue freddo, dico: no, questa provocazione non può passare, ma non può neanche fermarci qua, perché andarcene sarebbe stato, come dire, che a Catania per noi lesbiche, gay, bisessuali, transessuali sarebbe, come dire, vigeva il coprifuoco, cioè noi non avremmo più potuto avere un agire politico, ma anche un agire proprio quotidiano, no? Nella libera circolazione della città. E allora siamo riuscite, grazie anche al coraggio, alla freddezza dei ragazzi, dei centri sociali, alcuni di rifondazione, dei giovani comunisti, a continuare il percorso. I fascisti se n'erano andati e siamo arrivati a destinazione. Però questa cosa ha cambiato molto la percezione della nostra lotta antifascista. Noi lo siamo stati sempre, però abbiamo pensato che forse nello statuto era necessario aggiungere antifascismo e anche antimafia, perché la nostra terra, e voi lo sapete, la nostra terra è divorata dalla cultura mafiosa, che vuol dire una totale subalternità al sistema, che vuol dire un'assenza di dignità totale, che vuol dire avere paura e non, o comunque accontentarsi delle briciole. Allora noi cerchiamo di quello che l'Open Mind sta facendo, e non è una cosa da poco, perché comunque siamo anche soli all'interno del movimento GLBT siciliano, che ora un po' vi spiego com'è la situazione. Stiamo cercando di coniugare la lotta per i diritti, tutto quello che vuoi, delle persone LGBT anche con le altre con le altre cose che ci danno dignità, perché la dignità non può essere solamente quella di avere le nostre cose e di coltivare solo i nostri praticelli, perché se noi pensiamo che un mondo diverso sia necessario e possibile, dobbiamo unificare le lotte. E quindi quest'anno il Catania Pride abbiamo deciso di farlo da soli. Abbiamo deciso di farlo da soli perché non accettiamo l'idea che in Sicilia, proprio in Sicilia, si possa fare un Pride siciliano solamente basato sulle cose GLBT. Perché in questo momento in cui il nostro paese è proprio sta subendo un processo di fascismo così, come dire, occulto per certe cose, ma anche così visibile, in cui un'opposizione reale non c'è, in cui i giornali sono completamente l'informazione è completamente annullata. Per dirvi un episodio, no? In Sicilia il giornale principale mafioso è il giornale La Sicilia. Questo giornale quest'anno ha dato, ha omesso per il secondo anno consecutivo di mettere il nome dell'Open Mind dall'8 marzo che abbiamo organizzato, e l'anno scorso era successa la stessa cosa. Questo significa semplicemente che noi, che la nostra lotta dà fastidio, perché non si capisce perché il nome dell'Arcigay e delle altre associazioni vanno bene, il nome dell'Open Mind non va bene. Allora, quest'anno, approfittando di una serie di cose, abbiamo pensato di non fare il Pride insieme alle altre associazioni GLBT catanesi e siciliane, per un semplice motivo, perché noi pensiamo che, così come abbiamo scritto nel documento politico, noi pensiamo che essere gay, lesbiche, bisessuali e transessuali sia una parte della nostra vita importante, ma noi non siamo solamente sessualità e affettività, siamo altro, siamo donne e uomini che lavorano, e quindi il lavoro, lo sfruttamento, tutto questo, siamo persone che consumano, che vivono in un ambiente devastato. Ecco, noi vogliamo come dire, unire, unificare queste lotte, e in questo sta secondo me la cosa rivoluzionaria, che forse può anche fare sorridere questa parola, però è una cosa importante, unificare le cose, unificare le lotte. E quindi, rifacendomi al discorso che dicevi tu, no? Di portare queste lotte anche all'esterno, perché come se la galassia GLBT fosse una cosa che vaga per i fatti suoi, invece noi pensiamo che bisogna lavorare all'interno per una presenza più consapevole dell'antifascismo, che è importante, perché in questo momento nel movimento GLBT passa molto questo discorso della trasversalità. Importante che siamo tutti froci, importante che vince Marco Carta, basta che è omosessuale, non lo so, fino a qua. Importante che, ok, Vladimir Ussuria vinca l'Isola dei Famosi, non lo so se veramente quanto può spostare una cosa del genere per le persone transessuali, visto che poi vengono uccise e massacrate ogni giorno, no? E il discorso sarebbe lungo. Niente, noi pensiamo che invece sia giusto, importante, utile per tutte e per tutti coniugare queste lotte, perché pensiamo che il futuro, che, come dire, la dignità, che veramente il coraggio passi attraverso anche queste cose, che anche se sono minoranze, in Sicilia lo sono molto, molto di più, perché sembra facile dire io sono antimafia, ma non è così facile, non è così facile, perché ti esponi a tante cose. Poi ci sono anche dei gesti simbolici. Noi avevamo messo una targa che ricordava i 44 confinati catanesi all'epoca del fascismo, che erano stati mandati all'isola Tremiti dal questore Alfonso Molina, e ricordava anche i gay e le lesbiche massacrati nei campi di concentramento, e per due volte hanno tolto questa targa. Adesso noi non vogliamo più rimetterla. Perché? Perché vogliamo fare altre cose. Per quest'anno al Catania Pride aderisce anche l'AMPI della sezione di Catania, e questo ci sembra un segnale importante. Con l'AMPI noi vogliamo fare un percorso che possa arrivare al 27 gennaio dell'anno prossimo, che è il giorno della memoria, con una, come dire, con una cosa concreta. Io voglio fare a Catania, voglio mettere due triangoli, uno rosa e uno nero, di marmo, una cosa che nessuno possa più toccare, lì come simbolo della nostra resistenza, perché noi siamo parte di quella identità, di quella storia e di quella memoria. Grazie.